Pietro. Meno scopo di vedere.

controlli, spero, sono propizianti e quindi ho anche mai fare, ma fare tutto il giro di prima, che stasera poi c'è qualche altra cuore, ma siamo pronti, se vediamo con rientro, ma c'è un mare, tanto no, non voglio fare la mano, capito? Perché devi fare la mano, sì, e poi sì, vabbè, ho pazienza, non dico quello che sta facendo. Devi fare sempre, non è che non è bisognare nessuno. Se ci fai a psicologo, no, fai la figlia. Vediamo però cosa decidono, o non ne ho problemi. Quello che è successo non è neanche mia, quindi vedono loro, anzi già. Ma è partita Luisa, se lo tappare per non fare casini, i piattoni, lo tappare con tutto, fatta la beffa, loro non la fa, non si è affacciata per niente a dire è colpa di qualche cosa. Il tutore c'è 50 e pagato visibili che la fa, insomma, io credo. Cazzo lì, mi fa fare per forza, no, ci sono niente. Volevo comprare loro, invece al ricometto non c'era nonne, anche se lo compro lo rimborsava. Prima fare il code del ticket, le trovo come cazzo sì. Ho fatto le tre pagate, euro lui, ho fatto le fatture, ma lasciate su. Cioè, non ho pagato più niente, ho fatto tutta la credita. Così, però succede qui, nel forno ho pagato, non è che io l'ho passato. Non è così, sta interruttore da comprare per l'operazione, finito di operarmi, l'hanno fatto ospita, cioè mattina sperato, mi sperato, l'assero rimesso, doveva spendere il tutore, mi metto il tutore e mi scende con le stampe e camminare, esatto, e queste cose, se c'è cioè, quelle cose, operano a me. Io non ho mai fatto il genere, questa è la tutta che faccio, e tra l'altro mi è andata a Burgo. Speriamo la cosa è più una cosa, ma io lo stesso puccia, questa proprio per la schiena, perché ho anche un certo molto brutto, ho fatto un giro di frappia, fratelli, insomma, stavo chissà, non mi ho puntato, ma c'è casino, allora, vabbè, se ne questo passerà, avanti, bombolo. Ma non ho tanto, non fa per colpa mia, ma questa gente gatta e gatta, che se la voglio per terra. E mi sono fasciato il dito, mi sono fasciato, però ci andavo lo stesso, siccome mi hanno messo una persona firme, cazzo, guarda, salivo io, salivo e cosa, a vedere un po' la situazione, ma guarda, mi ha fatto salire i nervi, mi ha fatto salire, ho detto, guarda, male il peso, guarda. Col dito fagato me la prendevo con le due dita così e la salivo io, perché ero indemoniato, ero perché lo volevo lavorare, capito? Mi si girava la spalla era in mezzo, guarda, cazzo, lento lento, cioè pari avevo in pasta, io non sono abituato, perché so, detto, vabbè, le porta lui, ho detto, io stagio nei piani, vedo un po' la situazione, anche perché a me mi conoscono, hai capito? No, non mi piace a me stare a casa, hai capito? Cazzo, ma... Uiuia! Lo so, purtroppo è così, quando uno è abituato a fare il suo, a darle mani agli altri è un casino, io... Per carità di Dio, va. Ho già visto, ho fatto un giro negli impianti, ho già visto come li hanno lasciati, cosa ho lasciato io da fare, cosa non hanno fatto, è un manicomio e quindi sicuramente l'azienda preferisce che me ne rientri a lavorare e a seguirmi le mie cose, questo senza ombra di dubbio. Come tutti, quando uno c'è un incarico e poi si allontana, va in ferie e quando torna ne ha il doppio, così è già. No, ma che questa volta diciamo che Non so se sia venuta gente a ritirarsi cassette e cose del genere, però ho fatto più ordine, dico la verità. Il furgone l'hanno lavato e in più quello che ho trovato, diciamo che non era affatto, e l'ho lasciato a riserva fissa. Stamattina quando sono andato a prenderlo mi sono trovato un po' impacciato perché avevo tutte le consegne da fare, sono dovuto andare prima al rifornitore e l'ho trovato chiuso, quindi sono dovuto tornare indietro, farmi dare i soldi e andare in un altro rifornitore, e quella è l'unica cosa magari. Però le altre volte già ne hanno fatto di cavolate, tutto il furgone sporco, le cassette da buttare via, un casino, ci lasciavamo tutto un casino. Ma questa volta sono passati a ritirarsene le cassette, magari perché passa un camion della frutta e verdura e se le carica tutte, capito, quelle di plastica. Se non fa quello lì, devo caricarle e portarle io, diciamo c'è Giovannino che le ritira, come si chiama, Adas, che le ritira, c'è il caporale dell'industriale e le macchine. Ehi, ehi, ehi, vedi, è già quello anche una buona cosa, già va bene. Dammi un secondo, Anto, come sta chiamando mia moglie? Chiara. Eccomi, sono arrivato. Ah, ci sono. La bici c'è già. Mi sono chi? Allora, hai capito proprio quello che stavo dicendo? Che praticamente Daniele non ha potuto consegnare perché non so dove capo vorrà andare. Perché già metterà a posto Gizzo già. A Giovanni me lo mangio, poi stava consegnando lui per un periodo. Perché io ero così, ero, ma io ero sempre in giro, ero, cioè non è che cioè, oramai io ci sono talmente abituato, adesso fra un po' vado in ferie. Una ghetta mi piace, la seconda ghetta già come detto sto sempre facendo cose da una parte all'altra, capendini tutto, vendi, chissà che tanto, cioè perché sono fatto così, sono fatto. Che sembra che mi manchi qualcosa, capito? Oramai già da un bel po' di tempo che io lavoro, e così che sono più di 10 anni, molto di più di 10 anni. E così che quando io la mattina non faccio quello che devo fare, magari per 10 giorni mi va bene, da poi di io c'ho l'ansia. Cazzo, tu mi vedi a casa, sempre a casa, vendi, bomba, non mi intendi a che cosa. Perché sono fatto così quando non lavoro, Giulia? Sì, ma guarda, siamo tutti così, Antonio. Siamo tutti così. Non c'è niente da fare. Anche a me piace il mio lavoro, lo seguo bene, ci sto molto attento, però purtroppo quando non ci sei che ti mettono i sostituti è un casino, tutto lì. Scappa. Ecco, una volta sono dovuto andare a casa a fare una visita a casa. Cioè, ho dovuto fare una cosa, una piccola cosa, dai. Veramente un verno pieno, cazzo. Ma lo sai che non ce l'ha fatta a fare tutto il lavoro. Cazzo, l'ha mandata all'indomani. Io glielo sono passato avanti con questo. E c'è lo smetto più. Con un osso è vero di più. Ok, va bene. No, ma è così, funziona così. Purtroppo quando nell'ambiente lavorativo c'è persone che non riescono a fare il suo bene, non riescono a fare neanche quello degli altri. Io invece quando devo sostituire mi impegno più sul lavoro degli altri che su quello mio, perché voglio che quello che non c'è quando ritorna deve fare bella figura. Invece è al contrario. Quindi anche nel settore di Gianni così, quindi sento che aiuto un casino, già magazzino, roba da mettere a posto, che ti hanno lasciato tutto incasinato. Papiro una volta. infatti quest'anno mi sono meravigliato, c'era mai qualche santo che stava a lavarmi il furgone, l'ho mai fatto, boh. O gliel'ha detto lui di lavarlo prima che tornassi, perché l'ultima volta mi sono lamentato. Io mi è bastato vedere la furgonetta qua, ho visto qualche diretta socio, ho detto, ma ho visto appare, non ti dico com'è, infatti c'era uno che la guida, ha detto, ma questa macchina c'è di chi è? No, è di moi, è la mia, io non so quando rientro, ma mi auguro che il giorno che rientro non la provo così, perché altrimenti tu vai a piedi, tu vai a piedi, tu dico io che tu vai a piedi. Perché come ho lasciato io questa macchina si poteva mangiare dentro, siete degli schifosi, ho detto avanti a tutti, fate schifo, forse perché le macchine non sono le vostre, ma fate nettamente schifo. Sono quindi dei guanti, prendo i lattice, piedi di bambino come dici maniere urbanino, il cruscotto tutto pieno di polvere, fuori non vuole vista, l'ho aperto il cassone, tutto usurato, io ce l'avevo tutto messo bene, tutto a posto, con le cassette di plastica, tutto usurato, tutto, un casino qua. E poi non metto le cose al loro posto, io sono metto tutto, la tolgo da lì, la rimetto lì, la seconda volta che vado a cercare la trovo, loro no. Adesso sono un pochetto nervoso questi giorni, cioè, stamattina ero un pochettino nervoso, ero perché dovevo lavarla quella macchina e ha fatto tempo brutto, già vedo tutte le schizzate di acqua e cosa, già sono pure poi flesci a capo, perché la lavo spesso io quella macchina, già l'hai vista tu, è sempre bella pulita. È normale. Se io sono pulito nelle cose degli altri, immaginiamoci nelle mie, quindi perché tu non devi essere uguale? Non capisco, capite? Non capisco. Eppure c'è gente che non fa bene queste cose, e a me mi dà fastidio. Io l'avevo lasciata che ho un gioiellino con la macchina e la notte ho messo a poco, l'ho riverniciata, ho cambiato il parafango, tutto. Guarda, una macchina vecchia, completamente vecchia, di quanto è sporca. Spero quando rientro non provo la guida, se no qualcuno va a piedi da vero. E vabbè, purtroppo il lavoro è questo, o così, o così. Avanti Gianni, parliamo di altro, se no teniamo la malinconia a farvi dare i fendosci. Cosa stavo dicendo? Ma come mai in Colonia Marcolino? Come mai è in colonia, va in colonia? Ogni anno lo faccio andare, ogni anno, ma ritornano la sera, non è che ne sta lì. Ritornano la sera, ho capito come lì andare, mi sono messo a bagno, mi ci vestì, è una bella cosa. Adesso c'è invece andata lì a Sodomo, quella che c'è a fianco. Appagato. Sodomo come la pizzeria. Sì, un bed per anziani, capito, mi hanno andavano lì 15 giorni, c'è la stanza per dormire, c'è il ristorante, ci sono i svaghi per gli anziani, le bocce, la sala, insomma, TV, tutte queste cose, là. È un bed per anziani, molto bello, si stava un sacco bene, io so c'è. Ogni anno vorrebbe l'ora di andarsene 15 giorni di proprio per rilassarsi. Guarda, quindi è successo di andarci anche a quello dei pini, quello che c'è a Plattamona, ma tu devi vedere che roba dentro. Sì. Ma ce n'è queste strutture per anziani, per giovani, cioè già sta bene, sta benissimo. E di nato vuole male giusto. Sempre soldi. Caffa, la zinavo i uomini. Quello che voglio parlare di soldi è come darsi un colpo di pistola in testa, perché le tecniche cercarvi una casa singola, una campagnetta o una casa, cosa ne so, in zona di punte, cosa così, se una casa singola, almeno non avreste avuto tutti questi problemi. Il singolo te lo devi fare tu, quando ce lo paghiamo tutto assieme a te, sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, guarda, quindi, per fare io il singolo voglio una casa bella, grande, spaziosa, e anche a me piace la moto della zona di Budimundo, mi annullerò, lì da mettere un bel felice, mettermi tutte le antenne. Sono fortunato perché sul tetto posso mettere qualsiasi cosa, no? Non devo chiedere niente a nessuno, non me la fotti nulla. Il problema è che la struttura è nuova, però esternamente c'è sempre da fare, i giardini, abbiamo fatto portare gli alberi, ci hanno preso 2000 euro, con le scale aeree, abbiamo fatto un sacco di lavori, cancello nuovo, cancelletti, portoni nuovi, queste cose non le hanno fatte. Bisogna sempre pagare. Chiappa, perché tu sei convinto, sei caso che chi è un condominio, c'è un gnadiso, sempre domande di dinà. Va, se lo vuoi fare lo fai, se non lo vuoi fare lo fai. Quando si ha con Cusoglio, è diversa la situazione. Lo so, non deve essere sì. Chi è che vuole entrare? Avrei visto un fatto di spesso dei capelli. Io credo me lo sì. Sicuramente, no, c'era un segnale più alto del tuo. Sono 9:10, no? Può capire se era qualcuno che non sta conoscendo, qualcuno che è stato un attimo importante, che non so. Avanti già. Gianni. Ehi. Come ne dici? Vabbè, come sta prendendo qua? Pare che volevo fare tutto il 144. Sì, però dici oggi. E c'è un bel roba da fare. Ma se... che regali tutti i negozi, che la mattina con in offerta. Ma stamattina, quindi sì, un po' stanchino. Quindi va bene che io mi trattengo assai, che andiamo a lottare alle 6 di domani. Alle 6 di domani devo lottare. Devo andare a fare questa fisioterapia. Andate a mettere la mandarallina e poi tornare a fare l'altra fisioterapia, quella delle 10. C'è un sacco di cose a fare la mattina sempre, beh, oramai è diventato un travaglio. Mi vuoi andarmi a mettere la lebo? No, beh. Siamo qua già, dai. Ancora 10 minuti e poi mi andrò anche io. Avanti, bombola. Ma come ti mai... come ti mai viene peggiato in sé? La mattina mi alza quello che ho detto, no. Non c'è niente da fare. Mi alzo per quello la colazione, la riesce ad andare al lavoro presto, vado alle 7, vado al bar quadrato, prendo due cornettini, mi prendo un caffè, io vengo di casa con i viaggi, sto 10 minuti lì, con un'occhiata al giornale, prendo le sigarette e poi vengo davanti a casa. E poi sotto il mezzo vado a fare la fisioterapia, capito? Tutta la mattina mi alzo a quello che ho detto, è talmente l'abitudine, non c'è niente da fare. Già, fa pure io me ne alzo quell'ora. Alle 6:30 sto a terra pure io. E al sicuro che non so potrà fare niente, a che ora? Per esempio, quando la domenica, a quell'ora lì, e subito, in doccia, via, fare la doccia. Quindi così è. Così, non c'è niente da fare, ormai ti ripeto, è talmente l'abitudine che non c'è niente da fare. Io qualche ora mi alzo, tre mattine, alle 6, faccio sempre la stessa cosa, alle 7:15 passa il mio collega, a quell'ora lì, io sono abituato a quell'ora lì andare a lavorare. E così. Invece la domenica per prima cosa quando mi alzo lì, a quello magari che me l'ho fatta la sera prima, ma poi da come è la situazione, a quell'ora lì presso che non c'è nessuno, che magari sono ancora a letto e cose, entro subito 30 luce, via, l'ha fatto e cosa, poi aspetto un po' e poi dopo si esce. Hai capito? La domenica sono abituato così. Adesso quando andrò in ferie, sarà una pezza di cosa pure. Sì, quando andrò in ferie sarà la stessa cosa, sì. Sarà la stessa cosa, sì. E quando uno è abituato lo stesso, purtroppo è così. Bisogna fare sì. Stamattina hanno provato, però la verità sai cosa è? Che è Ghito, un gatto, piglia Ferdinando, piglia la bombola, una volta un mese, cazzo. Una volta un mese non è che ti puoi fare il supplizio, no? Hai capito? Ho capito tutto. Ho capito. Non perché la prende da un'altra parte? La prende da un'altra parte perché quello lì è pronto, fa rompere le palle e poi fa la vittima. E così che, ma gliela possiamo dare? Aiuto. Tre o quattro volte. Comunque, buonasera di nuovo a te e a Bombolino se mi ascolta, cambio. Hai capito com'è la situazione? Perché sennò pure noi lo facevamo apposta. Allora, ne prendevamo il cliente e torna. E vabbè, si è passata così. Vabbè, tanto non è che sia un grande consumatore. Quello che consuma di più è Bulling, Gambrinus. Manco la Fenice ne consuma. La Fenice ne consuma due. Ne consuma due ogni 20 giorni, così. Chi di cazzo sono due, una o due alla chita, insomma. C'è Giuseppe, che forse non ti sentivo, riprendi Giuseppe, secondo che ho toccato la mula, cazzo mi sto facendo il sangue, vado a disinfettarmi, riprendi Giuseppe. Veglia, attenzione, Bombolino. Veglia, sì. Bomboli. Dimmi. Vabbè, cazzo, era ora di farti sentire. No, io già mi faccio sentire, se tu che sei sotto. Cos'è? Non ho capito. Tu che sei sordo, da pure perché sono capo del gatto, beh. Due ore, allala, ulala, fare brigante. E chi è tu? E tu che sono gatto di slavo, cos'è? Qualcuno che sta mettendo la portante. Che portante, portante? Lo slavo, Ah, capa. Beh, cosa mi racconti a tu? Che me la sto grattando. Vabbè, l'importanza è tirare avanti a tu. Oia, per carità. Ogni passata di acqua ieri notte a casa di un alghero. Oi. Capo, non hai capito quello che ti ho detto. Già ho capito tu. Maestro, cosa stai facendo? Me la sto grattando. Ho capito, ti ho detto che ieri notte c'era una bella passata di acqua al ghero. Pure qua te l'ha fatto, Cappa. Beh, Claudio, che stesso. Dove? No, dice che si è acchicciato una brugola e uscito il sangue. Ah, cappa. Dove sei? Io sono all'uscita di Via Italia, dai, hai capito, via Budapest, quella zona lì. Via Italia, bene le senti. Cappa. Con la sua coscienza che passa un po' di basta che dai tranquillo, là, basta che non faccia il che non rompa le scatole agli altri che non stanno modulando e dunque lasciamolo tirare avanti nel suo paese e cosa vuoi dica. Ah, sai che c'è, perché ho visto stamattina. E chi hai visto tu? Puttola! Ah, Massimo! Sì, va. Vabbè. Oh, già, per carità. Quello, cazzo, bisogna chiamare quelli che vanno a dare la medicina per le zecche e bisogna dargliela anche a lui. È capita tu? Stamattina sono passato 2 minuti così e mi sono andato subito. Un po' di volte mi dispiace perché pensa che tuo fratello che non voglia consumare niente per non spendere. Eccomi qua, sono rientrato. Dove sei, Giuse? Adesso sto piano la strada per l'Alghero, vai. Va, stai andando nella città di Sandra Mandru. Che cappa, cappa tu. Nella città dei guasti sto andando, nella città dei guasti. Mentre che sono un paese, diciamo una città come quella che non ho mai conosciuto, per carità. Ma sono guasti a Veluso, no sul senno. Allora dice, ma Caluso. Ma cosa cazzo vai, si può sapere. Qua per andare a Alghero, vai. Bomboli, K Bomboli, eia. Stavo dicendo, Bomboli, che adesso il comune deve dare la medicina per ammazzare le zecche. Adesso gliene facciamo dare anche un po' a quello là, cazzo, almeno rimane, rimagrisce anche un po'. Mettiamo acqua, molta acqua, perché se no non andrà bene. Ci vuole molta acqua, ci vuole. Lo mettiamo appena appena per... li facciamo il lavaggio col coso, con lo shampoo per macchina, che forse va meglio. Signori Billy, sapete già ricco che io vi abbandono. Vado a vedermi un po' di TV, 10 minuti e poi me ne vado tutta a nanna, che domani me lo fai presto. Un saluto a tutti, Saverio, Luca, a te Bombolo, a Gianni Lotto Rumo che è in QRX, sono sempre addormentato, e a te Giuseppe, dai, e quello che stanno ascoltando. Buonanotte a tutti, alle prossime, ci sentiamo, cambio cambio, avanti a chi tocca. Ciao, ciao, buonanotte. Mia madre, stai sempre andando là di là, no? A fare fisioterapia. Sì, tutte le mattine, Giuseppe, infatti adesso vado un po' a svegliarmi a Nirvana, e poi un'altra mezz'oretta me ne vado a mano, e quando me lo fai presto. E c'ho anche la visita a Ottopirica domani, che è il 24. Ciao Gianni, ti ho sentito, buonanotte, buonanotte a tutti e ci sentiamo alle prossime ore. Ciao ciao ciao ciao. Appa, ciao ciao ciao, buonanotte. Ascolta, io ti voglio fare una domanda. Veloce veloce. Sì. Ma cos'è la fisioterapista? Femmina o maschio? È femmina, è femmina. È anche una bellissima donna. È grande, insomma. Avrà sicuramente o l'età mia o un anno, due anni in meno, comunque è una bella donna. Mamma mia, che... fisioterapia niente, se no guai, se no la fisioterapia lo fate un rito. Infatti ogni volta mi mette il gel nella spalla e me la massaggia per farmi gli ultrasuoni, mi si abilita sempre l'uccello, non so come dirlo. Ma noi abbiamo fatto un buco, no? Vabbè, dai. Un abbraccio a tutti, buonanotte, ci sentiamo domani, signori. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Dai, scusa, stavo scherzando. A me corridismo. Beh, non c'è problemi, a te. Va bene così, va bene così. L'importante è scherzare e ridere e fare il crescio. Quello è sempre importante. Giuseppe, riprendi la tua e fai girare, dai. Io vi ascolto e poi chiudo. Ciao a tutti, buonanotte. Eia, ciao Cra, buonanotte. Una buona giornata per domani e ci sentiamo, dai. Avanti, Luca, se ci sei, Lucariello. Luca. Oh Giuseppe, veramente mica, guarda, quando... se me ne metti... cioè, se mi mette le mani un uomo, cazzo, sono già coricoso. Cazzo, se mi mette in mano una donna, cazzo, cioè, divento un agnellino, ripeto. Cazzo, come mi ascolti, Antonio? Guarda, adesso sono entrato alle 4 corsie per Alghero, vai. Benissimo, ti ascolto. Cazzo. Bene, mi ascolti. Sì, Antonio. Un punto ti ascolto bene, poi arrivata quella zona di Totopella, dopo Totopella ti perdo. Cazzo, è già un vantaggio che arrivo fino a Totopella. Cazzo. Perché ma io già ti sento, però è perché non sono amplificatore attaccato. Se no già mi avresti sentito anche oltre, fino ad Alghero arrivo. Bisogna farsi sentire, tu, io te l'ho detto, sto usando quella pressione là e l'apparato là. Sto uscendo con interfacce puliti, cambio. Certo, ma non va l'antenna in faggiù o no, però magari l'avessi avuta sul tetto con l'antenna. Mi sarebbe fatto sentire da tutte le parti, giustamente la ghiera non c'era stato nessun problema. Anche dopo. Cappa, vabbè, tu, piano piano le cose si sistemano, ci fanno e adesso vediamo un po' come va a finire la questione, poi lasciare scappare questa cosa qua. In inverno iniziamo a trattarsi di tutto, ci aggrattiamo, mettiamo l'antenna sul tetto e non ci pensiamo più, a meno ci facciamo sentire, anche, mi faccio sentire da tutte quante le parti, cambio. Guarda, minimo avendo l'antenna sul tetto dovrei arrivare qua, da qua fino a Bosa minimo, perché penso che la zona ghiera è molto, è aperta fino a, da qua a lì, e c'è un grido via. Cappa, vabbè, va bene, adesso sto, sono quasi arrivato tra... Tiro di coso là, di Marcari, quella zona lì. Che cappa, già ti sento bene ancora. Avanti Luca. Per un attimo, ti faccio una posta cameretta, qua ci arrivo subito. Sì, non c'è problema, dai. Cappa. Cappa, Leonci. Ma come senti a fondo così o mi senti ancora bene? Chi sei che non ti ho riconosciuto? Mi prende l'aria nuovamente come ieri notte, cazzo, che ha fatto quasi un diluvio. Oggi non mi sente. Ma chi c'è sotto? Io sono Pompolino, è bravo, Pompolino dalla Deloce che sta modulando. Pompolino, guarda che c'è Franco da sotto, eh. Ah, Franco, mi ascolti? Adesso ti ho sentito, però ogni tanto ti copre, questo spagnolo che c'è molto caldo, ti copre ogni tanto. Sì, quello zingaro mi copre, non so come stia arrivando a sotto. Si voglia allumato di vecchia, ma non se ne vai dal canale. Secondo me questo popolo non lo sa neanche dove è di casa. Poi, come ti sta arrivando lì, nella tua zona, cambio? Non mi dici, mi stai arrivando. Ah, va bene, già va bene. Già, infatti già ti sei cortisone, cosa ti sarì, cocò, Giulia, però sì, mo prenderò delle medicine. Sono le api, le vespe. Sono maledette. Vabbè, ragazzi, come fa purtroppo. È un casino, allora appunto sto cazzo. Questa non mi va a beffa, Ma non hai visto dire che nel punto c'è una stata lo sintomo, ma proprio guaccio di bardo, ma sono due buoni. C'è da grattare, non riesco a non grattarmi. Sono stato l'arco, ma lunga, non passa. Ecco, la macchina vado alla farmacia e se la bilo in culo. Un segnale oscillante 2-3, stava arrivando a 4-5 di lì. secondo un passaggio mi è arrivato anche 9 poco fa, eh. No, adesso è basso basso, arriva 3-5-3-5. Questo qua è oltre 9-10, mi è arrivato poco fa, fortissimo. Cavarocci. Cavarocci. Lucariello. Lucariello. Se stavi passando ti sta. Ma tu c'ho tutta la loro cuffia, c'ho, faccio molto di far male. Cazzo, vabbè, cosa ti hanno detto? Mi hanno fatto la puntura, il culo. Mamma mia, che piace tutta. Cazzo, mi abbatte di un culo, mi sa, ci due mi si va a battere ragazzi. E io, vabbè, che puntura, stavo di montarli. Ho tiro con una di qua. Quella era. Sì, ma, come posso fare già? Faccio il suo di peggio. No, la prima puttana, il tuo porre è possibile. Siamo tutti di nulla. L'importante è che non sia un cesso. Cazzo, che non sia proprio l'ultimo scarto. Prima per il taglio, la ci muove un capo sotto la lavandino e tu per il taglio. Va bella. L'avrò detto, dottore, faccia piano, che sennò le fa la puntura e dall'altra parte c'è l'altra. Ho preso, no? E tu lì, faccia a faccia, lei sta pugna, aspetta, fa poco pungo io, aspetti. Faccia, già preso, guarda sul trappolo, guarda sul trappolo con l'uscita. Mamma mia, ui ui ui. Oh, effetti strani. Quando uno è uomo, quando uno è ricchione, no, non succede quello. Allora, gira, Lucari. Ma dietro Lucari non si senti quella mia, papà. Papà, papà. Ma girando questa radio lì in Antonio. Benissimo, gira. Io ce l'ho qua, vicino all'altra. Ho attaccato questa per usare questa, dai. Carocci. Non è rimasto nessuno, c'è la ricco di sorso che mi sfugge il nome. Salvatore del sempre. Chiamalo, scusandoci. Leoncino, Leoncino, Leoncino, ascolti quella mia, capo. Leo sono Gesù monti, sopra monti. Tu hai detto Tartareggio. Tartareggio. Fatta Resino, gatta gatta, andrà bene, dai. Già, ci sentimmo giù là, a Rubidere, in vita, da. Pure in Salvega, da. Ok, dai. Ciao, salve. Io lo capisco benissimo, capisco bene, salto, il calurese. Ero da Sarizzo, sono una passata via, hai capito? Non mi butti nessuno, non mi butti, avevo qualche parola in cagliaritano, lo sto studiando un po' per non fregarmi, non si sa mai che qualcuno mi voglia fregare con le parole. Ok, ciao ciao, buonanotte, buonanotte a tutti, ciao ciao. Parlo, giro da. Se ti mimo già a casa.